Certo, erano tempi in cui ci voleva un po' di spirito del paradosso, della contraddizione, per sopravvivere. Ed ecco che il commissario all'istruzione visita una scuola elementare perché vuole provare il livello di fede comunista dei piccini, proprio dalle elementari. Entra in una classe e interroga: bambini, compagni, anzi, piccoli compagni, chi di voi mi sa rispondere a due domande importantissime? Chi è il nostro vero padre? Dal fondo dell'aula si alza una manina. Io! Fatti vedere, piccolo compagno, di' il tuo nome. Compagno Salomone Rabinovich, dammi la tua risposta. Il nostro vero padre è il compagno Iosif Vissarionovich Giugasvili, detto Stalin, guida del proletariato mondiale, padre dei popoli che porterà la giustizia e la pace in tutto il mondo. Bravo! Ah, piccolo compagno Rabinovich, sono fiero di te. Saprai darmi sicuramente anche l'altra risposta alla domanda che ti faccio. Qual è la nostra vera madre, piccolo compagno Rabinovich? Io! La nostra vera madre è la nostra luminosa, radiosa, gloriosa patria sovietica, il più bel paese del mondo. Ah, compagno Salomone Rabinovich, tu sei il futuro dell'Unione Sovietica. Dimmi, caro Salomone, che cosa hai intenzione di fare da grande? L'orfano compagno! Erano tempi duri, succedevano cose di questo tipo, per esempio. In un gulag immenso, fra gli altri, c'è un uomo che sembra quello che c'entra meno di tutti in quella situazione terribile. Sembra proprio che lui è magro, è emaciato, ha un'aria di uno che è incapace di far male a una mosca. Come c'è finito? E non parla, non parla, finché un tipaccio di quei delinquenti comuni che c'erano anche insieme agli altri, infelici, prende pena di lui e con un'autorevolezza, dico, un uomo gigantesco, dice: ti prego, non posso più vederti così. Sfogati, parla, vedrai, starai un po' meno peggio. E l'omino emaciato dice: io non ho fatto niente, io facevo il maestro elementare, avevo la mia classe di bambini meravigliosi e soprattutto Nastia, una bambinina di 7 anni bionda, con gli occhi celesti, bionda, bionda, e la boccuccia colore del lampone. E un giorno Nastia mi dice: compagno maestro, è successa una cosa meravigliosa nella mia casa una settimana fa. La mia gattina ha partorito 5 micini e sono tutti e cinque degli eroici micini comunisti bolscevichi. Immaginatevi la mia gioia, la mia sorpresa, il mio stupore. Il compagno Stalin sarebbe venuto in visita nella nostra scuola di lì a una settimana. Sarebbe sicuramente venuto nella nostra classe. Io gli avrei fatto dire questa cosa da Nastia. Saremmo diventati la scuola più famosa di tutta l'Unione Sovietica. E così fu. Arrivò il compagno Stalin, con seguito del KGB, dell'esercito, entrò nella nostra classe. Io dissi: permettete, compagno Iosif Vissarionovich, io vorrei che la nostra piccola Nastia, che è una meravigliosa piccola compagna, vi dicesse qualcosa. Stalin amava molto farsi vedere con i bambini, le bambine bionde che gli portavano i fiori, così. E se io, aspirando fumo dalla pipa, sono orgoglioso, onorato di sentire che cosa ci dirà la piccola Nastia. Avanti. Ecco, compagno Stalin, 2 settimane fa nella mia casa è successa una cosa meravigliosa. La mia gattina ha messo al mondo 5 micini e tutti questi 5 micini sono degli straordinari, vivacissimi, intelligentissimi socialdemocratici. Immaginatevi, dice il maestro, mi hanno trascinato via quelli del KGB, e mentre mi portavano via io gridavo: Nastia, perché mi hai fatto questa cosa una settimana fa? Hai detto che la tua gattina aveva messo al mondo 5 micini comunisti bolscevichi, e adesso? E la piccola Nastia mi rispose: eh sì, compagno maestro, è vero, ma allora avevano gli occhi chiusi, adesso li hanno aperti. Ora, per vivere in tempi come quelli ci voleva coraggio. Ma che cos'è in una circostanza simile il coraggio? Come si può definire? Ne discutono in una legazione diplomatica uno statunitense texano, un francese parigino e un ebreo sovietico. E il texano di Rodomonte dice: per noi il coraggio è questo. Prendi 10 motociclette, bole di motociclette, 10 amici che vanno sopra le motociclette, una delle motociclette senza freni, ma nessuno sa quale. E poi ci buttiamo giù per una discesa ripida che finisce con un muro. E alla fine uno di noi si schianta, rompe tutte le ossa, 9 mesi di prognosi, e gli altri 9 vanno a trovarlo all'ospedale portando fiori e cioccolatini. Il francese dice: pour nous, les Français, il courage deve sempre essere legato in qualche modo all'amore. Allora noi ci mettiamo 10 amici e andiamo fuori Parigi in una villa che affittiamo e portiamo con noi 10 signorine di piacere. Come le chiamate voi giustamente? Putain. Questo. E una di queste 10 signorine, putain, ha tutte le malattie venere note e ignote, ma nessuno di noi sa qual è, e ognuno prende una e con essa fa l'amour per due notti, due giorni, con tutte le posizioni di Kama Sutra. E dopo qualche mese uno di noi finisce in uno di quegli orrendi istituti per malattie venere all'ultimo stadio e gli altri 9 vanno a portargli fiori e cioccolatini. L'ebreo sovietico dice: voi non sapete cosa è coraggio. No. Coraggio è questo. Noi a Mosca, 10 amici, una sera ci riuniamo con vodka, sigarette, papiroschi e beviamo, fumiamo e tutti e 10. E uno di noi è un informatore del KGB. Nessuno sa chi. E tutta la notte noi raccontiamo barzellette contro Stalin, tutti quegli insulti che sappiamo e tutte le cose più schifose che possiamo dire di lui. La mattina dopo, 9 di noi partono per il gulag e uno viene alla stazione a salutarli col fazzolettino. In quei terribili tempi chiesero a un funzionario, alto funzionario del KGB: ma quando ci sarà il comunismo? Esisterà ancora il KGB? No, rispose quel funzionario. No, non ce ne sarà bisogno. I cittadini sovietici avranno imparato ad arrestarsi da soli. Stalin, в большой ученый, языка знали, знают тебе толк, а я простой советский заключенный, и мне товарищ серый брянский волк, за что сижу, воистину не знаю, но прокуроры, видимо, правы, а я сижу в Турханском крае, где при царе сидели в ссылке вы. Чужих грехах сходу сознавались этапом шли навстречу злой судьбе. Мы верили вам так, товарищ Сталин, как, может быть, не верили и себе. А я сижу в Туруханском крае, где конвоиры словно псы грубы. А это все, конечно, понимаю, как обострение классовой борьбы. Тогда что снег, там машкара над нами, и мы в тайге с утра и до утра. И здесь из искры разводили пламя. Спасибо вам, я греюсь у костра. Вам тяжелее, и обо всех на свете заботитесь ночной тоскливый час. Шагаете в кремлевском кабинете, дымите трубкой, не смыкая глаз. Имени легким крест несем за даром, морозом дымным и в тоске дождей. Мы, как деревья, валимся на нары, не ведая безумцы вождей. Выясните нам, когда в партийной кепке, ай, в кителе идиоте на парад, мы рубим лес по сталинские ощепки, а щепки во все стороны летят. Вчера мы хоронили двух марксистов, тела одели ярким кумачом. Один из них был правым уклонистом, другой, как оказалось, ни при чем. Он перед тем, как навсегда скончаться, вам завещал последние слова. Велел в его нам деле разобраться и вскрикнул тихо: «Сталин! Халафа!» «Дымите, чует товарищ Сталин, и по стоге придется сдохнуть мне. Я верю, будет чугунная стали на душу населения в больне. Я верю, будет чугуна и стали на душу населения в пальне. Erano davvero tempi molto difficili. Si poteva essere felici, tuttavia? C'era un qualche modo di essere felici in quei tempi? Perché no? Ne discutono tre cittadini sovietici, un russo, un ucraino ed un ebreo. E dice il russo: felicità in qualsiasi condizione è una cosa sola. Tanta vodka, una casina a disposizione, una bella pupa con un davanzale, come dico io, e sesso due giorni e due notti, ubriacarsi. E poi lunedì mattina, quando ti risvegli, fai le presentazioni con la sconosciuta con cui hai passato il fine settimana e te ne vai al lavoro. E l'ucraino dice: sì, questa è felicità, ma non è vera felicità. Vera felicità è quando insieme a queste cose c'è anche del buon pane contadino e delle belle fette di lardo. E l'ebreo dice: questo felicità? Alla grande felicità è un'altra cosa. Grande felicità è quando in inverno moscovita al 3 del notte vengono bussarti colpi cattivi alla porta e tu, tremando con pigiama, vai, apri il porta e ti trovi due agenti di KGB con occhi crudeli, facce cattive, impermeabile nero, capellaccio, che ti puntano il dito contro e dicono: abita qui il cittadino Rabinovich? Grande felicità è quando tu puoi rispondere no al piano di sopra. Naturalmente, persino in quei tempi terribili si poteva sfruttare la situazione. Squilla il telefono nell'ufficio del KGB. Pronto, qui agente di turno KGB. Sì, dite. Sono un cittadino sovietico. Io voglio denunciare quello schifoso ebreaccio di Rabinovich. Lui, fuori dalla sua casa, ha un orto dove coltiva fagiolini, patate, cipolle, cetrioli. Ma sotto la terra dell'orto, lui, quel porco, ci tiene dei lingotti d'oro clandestini. Blum! La stessa mano compone un altro numero, squilla il telefono in una casa, viene a rispondere un tizio vecchietto, alza la cornetta e dice «Allo?» Dall'altra parte «Rabinovich, sei tu?» «Sì, sono il Rabinovich. Chi parla?» «Rabinovich, sono Kaplan. Mi sono messo d'accordo. Domani vengono e ti zappano l'orto». Ora, altra cosa importante in quel mondo era quello che chiamano timing. Gli americani chiamano timing. Rabinovich si precipita nell'ufficio del KGB e dice all'ufficiale di turno: «È venuto qui mio pappagallo giallo rosso verde con cresta azzurra brasiliano che parla, parla, parla?» «Cosa? Cittadino, ma sei scemo? Vai alla polizia criminale per queste cose!» «Sì, ci vado alla polizia criminale, ma se il mio pappagallo giallo rosso verde con cresta azzurra brasiliano che parla, parla, viene prima qui da voi, dovete sapere che io non sono d'accordo con le sue idee politiche!» Anche in quella terribile era staliniana c'era un uomo del partito che non aveva paura di spararle durissime su Stalin. Gliene diceva di tutti i colori. Era stato membro del comitato centrale ristretto di Lenin, si chiamava Karl Rade, che era un piccolo intellettuale ebreo, con la barbetta rada, ricciolo, con gli occhialini, che andava in giro a tutte le riunioni grandi, i congressi di partito, qualsiasi cosa, e raccontava delle storielle su Stalin tremende. Un giorno Stalin non ne può più, lo convoca nel suo ufficio al Cremlino e gli dice: «Compagno Radek, basta! Raccontate storielle orrende sul mio conto, mi avete fatto diventare lo zimbello del partito, mi riducete a uno straccio! Mi rendete ridicolo, ma insomma non approfittate di essere stato grande amico di Lenin. Io sono Iosif Vissarionovich Giugasvili, detto Stalin, padre del proletariato mondiale, padre dei popoli, guida di tutti i progressisti che porterà nel mondo la giustizia sociale, la pace, la fine dello sfruttamento». Radek, a quel punto letteralmente terrorizzato, sgrana gli occhi, alza le mani e dice: «Compagno Stalin, ve lo giuro, questa non l'ho messa in giro io». Ora, i tempi cominciano a diventare duri. Stalin non si è molto occupato di politica estera, ha lavorato sull'interno. Il ministro degli esteri che ha avuto per 10 anni, dal 29 al 39, è un ebreo ucraino, Litvinov. Le poche cose che Stalin fa in politica estera all'inizio di quel periodo sono disastrose. Una delle cose è quella di criminalizzare tutti i progressisti del mondo che non siano comunisti o vicinissimo ai comunisti. Per esempio i socialdemocratici tedeschi. Dichiara che sono dei socialfascisti. Questa cosa terribile divide, spezza il fronte antifascista in Germania. Per questo i nazisti hanno la vittoria facile. Stalin porta una pesante responsabilità per questo. Però bisogna riconoscere che capisce il suo errore, lui stesso. E nel 1935 lancia la teoria contraria, cioè i fronti popolari. L'unione di tutte le forze progressiste perché si rende conto del pericolo nazifascista. Questo ottiene un risultato clamoroso in Francia. A un certo punto nel 1936 vince il fronte popolare guidato dal socialista, anche lui un ebreo, Léon Blum. E poi c'è il grande momento della lotta antifascista in Spagna. La Repubblica democraticamente eletta e legittima viene aggredita dai falangisti, cioè i fascisti del generalissimo Francisco Franco, appoggiato dai fascisti di Mussolini e dai nazisti di Hitler. Stalin si schiera con la Repubblica. Si produce in quel periodo quello che a mio parere rimarrà al di là di tutti i revisionismi da salotto televisivo, l'esempio più fulgido di solidarietà politica internazionale della storia dell'umanità, cioè le brigate internazionali. Vengono uomini da ogni angolo del mondo per difendere la Repubblica legittima, dall'Australia, dalla Cina, dall'Unione Sovietica, dalla Germania, dalla Francia, dall'Australia, dal Sudafrica, da ogni parte, senza altro interesse che difendere la democrazia, lasciando famiglie, lavoro, tutto. Stalin, tuttavia, non perde il suo vizio. Anche in quel momento perseguita i suoi nemici giurati, i trotskisti, gli anarchici, proprio mentre il fronte combatte contro i fascisti, è più forte di lui. Questi sono episodi veramente terribili, terribili. In un momento così glorioso, quest'uomo non abbandona la sua logica paranoide e repressiva. La Repubblica perde e viene sconfitta. Nel frattempo i nazifascisti si rinforzano, si espandono. Stalin capisce il grande pericolo progressivamente e tenta per 4 volte di siglare un'alleanza con i francesi e gli inglesi, fare un fronte comune antifascista. Manda per trattare queste alleanze il più alto livello diplomatico, cioè Litvinov e le delegazioni di più alto livello. I francesi e gli inglesi rispondono con delegazioni a bassissimo livello e tergiversano. L'ultraconservatore Chamberlain in realtà mira a scatenare i nazisti contro i comunisti. È la vecchia logica, a tenere le mani pulite e nascondere i fiumi di sangue dietro la schiena delle grandi borghesie imperialiste. Faranno gli altri il lavoro sporco. Ebbene, secondo alcuni storici, Chamberlain addirittura pensava un'alleanza antibolscevica con i nazisti. Ora, Stalin è stato un criminale, un tiranno e tutto quello che si vuole, scemo no però. Ricambia lo scherzetto, cioè fa un patto di non aggressione con i nazisti. Il patto Ribbentrop-Molotov, 1939. Stalin lo fa naturalmente per ragioni di difesa dell'Unione Sovietica, per non essere colto impreparato, ma è una catastrofe allo stesso tempo. Immaginatevi i sentimenti del fronte progressista mondiale, il paese dei lavoratori, il paese della rivoluzione alleato con il peggior fascismo della storia dell'umanità. È sconvolgente, è terribile, è una catastrofe. Il Partito Comunista Polacco viene distrutto, il Partito Comunista Tedesco, gli antifascisti, non solo comunisti, ma tutti gli antifascisti, si erano rifugiati in Unione Sovietica a cercare protezione dalla belva nazista. Stalin li impacchetta e li consegna ai nazisti per farli passare dai camini. Ma Stalin, ancora una volta, ha una fortuna diabolica. Quando la sua stella comincia ad oscurarsi, perché ha fatto cose orrende, la divisione della Polonia, l'aggressione alla Finlandia, insomma, ebbene, Hitler, nella sua megalomania, gli fa un terribile favore. A metà del 41 Hitler lancia l'operazione Barbarossa su un fronte di 6.000 chilometri. La Wehrmacht invade l'Unione Sovietica. Nelle prime 3 settimane di guerra sono fatti prigionieri 4 milioni di soldati sovietici. 60% dell'aviazione sovietica è distrutta al suolo. Eppure Stalin prende il controllo su di sé e in un memorabile discorso tenuto a Mosca, che lui non abbandona, quella è la sua grande intuizione, anzi celebra la rivoluzione d'ottobre di quell'anno come se nulla fosse. E con un discorso memorabile che si può sentire registrato, con una pacatezza tragica, con un pathos enorme nascosto dietro la pacatezza, chiama a raccolta tutta l'Unione Sovietica, tutte le forze progressiste, le quali rispondono. Anche perché l'efferatezza nazista contro quelle terre è senza limiti. Cominciano le resistenze epiche di Stalingrado e Leningrado e poi pian piano comincia la controffensiva. Accadono cose sovrumane, sovrumane. Non si può neanche pensare cosa hanno fatto le popolazioni, i cittadini sovietici. Cose impressionanti. Ora si può pensare quello che si vuole di Stalin e dell'Unione Sovietica, ma c'è una cosa che dimenticare sarebbe una forma infame di vigliaccheria. I cittadini sovietici, l'Unione Sovietica ha dato 27 milioni di morti per fermare i nazisti. 27 milioni di morti, metà di tutti i morti della Seconda Guerra Mondiale. Io sono vivo grazie a loro. Se a Stalingrado non avesse vinto l'Armata Rossa, sarei diventato cenere. L'eroismo di quella gente, al di là di ogni propaganda, e ai nostri tempi è inimmaginabile, inimmaginabile. Ebbene, quella povera gente non ebbe neanche una sepoltura individuale su cui i parenti sopravvissuti venissero a piangere. A milioni furono sepolti in fosse comuni. Con un conforto piccolo ma significativo, che la parola in russo è molto più poetica, si dice «bratskie mogily», «fosse fraterne». На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в дымную слиты. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в дымную слиты. А в вечном огне видим вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, ну разве от этого легче? У братских могил нет заплаканной вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, ну разве от этого легче? Не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают, здесь раньше вставала земля на дубы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в дымную слиты. Здесь раньше вставала земля на дубы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в дымную слиты. Gli ebrei? Gli ebrei combattono due guerre. Una è quella insieme all'Armata Rossa, come soldati, ufficiali. L'altra è quella che Hitler combatte contro di loro, la guerra di sterminio, fino all'ultimo embrione. Stalin sa degli stermini di ebrei, perché insieme alla Wehrmacht ci sono gli Einsatzkommando, incaricati proprio di questo, rastrellare ebrei e sottouomini e liquidarli con mezzi rudimentali, i primi camion a gas, campetti istruiti e messi in piedi in poco tempo, ma soprattutto fucilazioni di massa, dove molti, forse i più, non muoiono fucilati ma annegati nel sangue degli altri. Ebbene, ordina di compilare un libro nero a due grandi scrittori ebrei sovietici, Ilya Ehrenburg e Vassili Grossman. Stalin lo vede, lo legge e poi decide che non deve essere pubblicato e non verrà mai pubblicato in Unione Sovietica. E la guerra solitaria degli ebrei, anzi la guerra di Hitler contro gli ebrei, continua con efferata spietatezza. Saranno liquidate 2 milioni di persone in questo modo. E restituirà l'onore perso da una scelta così miserabile un grande poeta russo anni dopo, il poeta Evgeny Evtushenko. A Babi Yar non c'è un monumento, il ripido burrone è una rozza lapide e io ho paura. Oggi ho tanti anni quanti ne ha lo stesso popolo ebraico. Mi sembra di vagare per l'antico Egitto e di essere crocifisso. Ho ancora le stimmate. Mi sembra di essere Dreyfus. Filisteo è chi mi tradisce e mi giudica. Dietro le sbarre io sono accerchiato, braccato, calunniato, insultato. Le dame con i pizzi di Bruxelles mi piantano gridando la punta dell'ombrellino in faccia. Mi sembra di essere il ragazzo ebreo di Białystok. Il sangue cola e mi imbratta il vestito. Gli arroganti dell'osteria sanno di vodka e di cipolla e io impotente, gettato a terra da uno stivale, supplico invano quelli del pagrom. Urlando salva la Russia, ammazza l'ebreo. Un bottegaio bastona mia madre. Mio popolo russo, io so che tu sei per natura internazionalista. Io so quanto sia buono il mio popolo e quanto siano vigliacchi gli antisemiti nel chiamarsi tronfiamente e senza pudore Unione del popolo russo. Mio popolo russo, troppo spesso gente dalle mani sudice si è trincerata dietro il tuo purissimo nome. Mi sembra di essere Anna Frank, trasparente come un ramoscello di aprile. Io non ho bisogno di parole, io amo, mi basta che ci guardiamo. A Babi Yar c'è un fruscio di foglie selvatiche. Nella radura silenziosa gli alberi guardano minacciosi come giudici. è tutto un urlo muto. E io, a capo scoperto, sento che i miei capelli sbiancano piano piano. Sono io stesso un urlo muto sopra le migliaia di morti. Sono io ogni bambino, ogni vecchio fucilato qui. E non potrò dimenticare tutto questo. Riecheggi l'Internazionale. Quando sarà seppellito per sempre l'ultimo antisemita della terra. Non scorre sangue ebraico nel mio sangue, eppure io sono odiato di un odio da tutti gli antisemiti, come se fossi ebreo. E per questo io sono un vero russo. Malazzi, tavarisci! Urrà! Malazzi! Vaina kunchilas! La guerra è finita, certo, ma il paese è in ginocchio. La sofferenza enorme della gente dopo la guerra, la mancanza di ogni cosa, le difficoltà della ricostruzione, una generazione sparita, inghiottita nell'orrore. Naturalmente le sofferenze anche della gente comune, nelle cose comuni. Rabinovich, che è uno fumino, reattivo, arriva in un negozio, vede quattro patate nere, della carne tutta sangue raggrumato nerastro, pelle, niente, uno schifo, e comincia a bestemmiare. Guardi, dopo questa guerra che ci ha distrutti, queste canaglie maledette di burocrati che ci governano, guardi che non sanno fare niente. E poi io cosa, io quel gattaccio maledetto con quei baffi, se ce l'avessi fra le mani io gli strapperei uno per uno i baffi, glieli farei mangiare, sì proprio uno per uno. Mentre lui grida così, passa Lavrenti Pavlovich Beria, il capo del KGB. Lo sente, scende dalla sua limusina e dice: cittadino, vi chiamate Rabinovich. Ho sentito le vostre mentere. Sentite, perché non andiamo a farle da Stalin al Cremlino? ci tenete? Certo, dice, andiamo, io sono tranquillo. Sale sul limousino, porta il Cremlino, Beria bussa, porta l'ufficio, dice, Iosif Vissarionovic, domando scusa, c'è qui un cittadino che ha delle lamentele. Sta impaccato, aspirando fumo dalla pipa, dice, noi siamo i padri del popolo, noi cittadini, sono importanti, avanti, cittadino vi chiamate Rabinovic, bene, bene, avete lamentele, dite sì, io sì, sì, compagno Stalin, io dico che non, la guerra ci ha distrutti, ci è costata questa vittoria terribile, e soffriamo, e le cose da mangiare fanno schifo, e quelli burocrati che ci governano fanno schifo, sono la peste nella peste, e il gattaccio maledetto ogni volta che mi viene in mente io lo prenderei, gli strapperei i baffi e li farei mangiare. Molto pacatamente Stalin dice, cittadino Rabinovic, potrei farvi una domanda? A chi vi riferite quando parlate di questo gattaccio porco con i suoi bavi? Rabinovic sgrana gli occhi e dice, ma compagno Stalin, come sarebbe a chi mi riferisco? Io a quel maledetto porco di Adolf Hitler. Stalin si gira con un sorriso sonnione, guarda Beria e gli fa, e tu Lavrenti Pavlovich, a chi stavi pensando? A Rabinovic non basta questa cosa. Torna a casa e vuole scrivere ai parenti negli Stati Uniti. Prende carta e penna e scrive. Cari parenti, cugini, qui un disastro. Qui un disastro, non solo quelli burocrati schifosi, ma guardate, non basta che schifezze ci danno di mangiare. I prezzi! Sono andato l'altro giorno al magazzino Universale Gun. Quello, Universalni. Departamento alimentari, e cosa vedo lì? Vendono un opolo, così, un opolo per 60 rubli. Come fa un famiglia a mangiare con un polo così 60 rubli? Una disgrazia. 60 rubli un opolo. In buca la lettera, puntualmente alle 3 di notte arrivano gli agenti del KGB, puff, per la collotola lo portano alla Lubianca. L'ufficiale di turno è un bravo uomo, è anche stanco, gli dice, cittadino Rabinovic, propaganda antisovietica negli Stati Uniti, va bene che si tratta di parenti, ma le voci circolano, ma cosa vi è venuto in mente? Calunniare la vostra patria con quello che abbiamo passato? E poi, cittadino Rabinovic, mi stupisco di voi, non sapete che l'unica cosa che funziona in Unione Sovietica è la censura? Cosa vi è venuto in mente? Va bene, guardate, sono troppo stanco. Metto la vostra pratica sotto tutte le pratiche, guardate che sono 20 anni di gulag. Ebbene, qui sotto, se non sento più niente di voi, questa sparisce, ma non fatevi ribeccare. Rabinovic, via, via, via, andate a dormire. Rabinovic terrorizzato una settimana, due, tre, quattro, un mese, ma poi non resiste. Di nuovo carta, penna e scrive. Cari parenti, cugini e amici, qui Unione Sovietica, paese più felice di mondo. Siamo felici, c'è tutto, non ci manca niente, è tutto ricominciato di funzionare, scuole, ospedali, vacanze, tutto bellissimo. E prezzi più convenienti del mondo. L'altro giorno sono andato a magazzino Universale Gun, Departamento Alimentari, sapete cosa vedo lì? Un cosa che non potete neanche sognare. Vendono uno intero elefante fresco per soli 40 rubli. Kan proboscide. Potete immaginare questo? Ve lo sognate in America? Uno intero, un esercito mangia un settimana, un famiglia sei mesi, uno intero elefante fresco, capite? 40 rubli. Però io ho pensato un pochettino, cosa lo faccio io da solo di un intero elefante fresco? Aggiungo 20 rubli, compro un opolo. Ora, la guerra è finita, ma non la paranoia di Stalin. I capelli sono imbiancati, i baffi sono bianchi. L'aria è molto bonaria, apparentemente. Lui è lo stesso. Le sofferenze dei cittadini non sono niente per lui. Quello che conta adesso è l'impero che lui ha allargato oltre i confini del più vasto impero zarista. Ma comincia a colpire nemici supposti, immaginari, eccetera, nei paesi satelliti. Laszlo Rajk in Ungheria, tutti i dirigenti comunisti. E poi sarà il turno di Rudolf Slansky in Cecoslovacchia e ancora in Cecoslovacchia di Clementis e via, continua, inarrestabile. E poi gli verrà impedito dalle vicende fisiologiche di ogni normale essere umano, perché sono tutti gli uomini destinati a morire, di compiere la sua ultima nefandezza, cioè concludere una feroce campagna antisemita e la deportazione di tutti gli ebrei sovietici. Stalin, per la verità, e questo si trascura sempre di dirlo surrettiziamente, è il principale artefice internazionale della creazione dello Stato di Israele come Stato riconosciuto internazionalmente. Quando si vota la risoluzione 181 all'ONU, il primo voto sia allo Stato di Israele è Stalin, Unione Sovietica e tutti i paesi del blocco comunista. Non solo Stalin dà questo appoggio diplomatico fondamentale, ma è Stalin che fornisce le armi a Israele, non gli Stati Uniti. Anche se anche dagli Stati Uniti arrivano delle cose, ma soprattutto dai paesi socialisti. Stalin pensa di ficcare nella costola dell'impero britannico una spina socialista. La Pravda del 1947-48 sono un'osanna allo Stato di Israele, faro del socialismo, eccetera. Quando Stalin però capisce che Ben Gurion prenderà una strada filo occidentale, apriti cielo. Lì si scatena la campagna contro il cosmopolitismo, che in realtà è la campagna contro gli ebrei. 4 ebrei su 5 vengono silurati da ogni posto di lavoro, da ogni ambito della società, esercito, polizia, partito, sindacato, Stato, tutto, qualsiasi attività, arte, cultura, 4 su 5. E poi Stalin, ci sono i documenti visibili oggi senza problemi, prepara il decreto di deportazione di tutti gli ebrei sovietici nel Birobidzhan, una regione ai confini con la Cina, in realtà pensa a un immenso gulag. Non riuscirà perché morirà prima, però farà tempo a liquidare tutta la cultura yiddish sovietica straordinaria. Il 12 agosto 1952 verranno fucilati tutti in un solo giorno. Fra questi anche Pfeffer, il più grande poeta di lingua yiddish di tutti i tempi, che era un colonnello dell'Armata Rossa e segnatamente un colonnello del KGB. Stalin aveva avuto anche collaboratori ebrei, uno dei più suoi fedelissimi, una cosa molto strana, Kaganovich, rimane vicino a Stalin fino alla fine, non viene toccato, anzi Stalin non permetteva battute antisemite in presenza di Kaganovich. La natura umana è folle. Aveva colpito anche i medici del Cremlino, 8 su 10 erano ebrei, fra questi c'era il medico curante di Stalin, Vinograd. In questo Stalin non fu lungimirante, fu davvero stupido. Vinograd era l'unico che conosceva perfettamente la sua anamnesi e che forse avrebbe potuto salvarlo. È una strana vicenda questa degli ebrei comunisti, strana, drammatica, paradossale. Così ne parlano due poeti. Guberman dice: io provo pena per coloro che sono coperti dal loro sangue. Tutto il secolo è trascorso nella nostalgia del cuore onesto, torturando la stella a 6 punte, pur di unirla con quella a 5. E Aronov scrive: ecco, ti spezzi di nuovo, tu filo unico. Io senza di te non riesco a tirare avanti. Come faccio a unire la stella a 5 punte con quella a 6? Due vocazioni, due dolori. La vita scorre. Tutto il resto è poco importante. Ebrei e comunisti, un passo avanti. Io lo faccio. Sparatemi 2 volte. Stalin tenne una volta un discorso che venne registrato su dischi. Erano 4, se non ricordo male, o 5. Uno dei 5 dischi conteneva solo applausi da una parte e dall'altra. Stalin parlava male il russo, male, insomma, sbagliava declinazioni, il russo è piuttosto complicato. Lui aveva, la sua lingua madre era il georgiano, il russo l'aveva studiato più da grande e non aveva mai imparato bene a declinare i nomi. Una volta fece un errore di declinazione a un congresso, tutti gli oratori che parlarono dopo di lui ripeterono lo stesso errore per non offendere Stalin. Non si può veramente immaginare cosa sia stato. Ebbene, quando lui morì, il mondo sospese il fiato. Moriva un semidio, una cosa incredibile, divinizzato in vita oltre ogni immaginazione. Il suo funerale fu una cosa pazzesca. Per la calca morirono 1800 persone. E nel mondo le piazze... Guardate, vedete i giornali e i cinegiornali dell'epoca. Non si può credere. Stalin morì male, come un cane rognoso, soffocato, una morte brutta proprio. Mentre i suoi compagni, i suoi fedelissimi erano nella stanza di lei, lui agonizzava, loro lo sapevano, ma dicevano non disturbiamolo come se stesse riposando. Dovete subire in morte l'ultima grande beffa, forse la prima beffa alla quale non poteva rispondere. Il discorso funebre, retorico e pomposo, lo tenne Lavrenti Pavlovich Beria, capo del KGB numero 2 del partito. Lavrenti Pavlovich Beria, l'uomo che aveva avvelenato Stalin per farlo crepare in quel modo. Дорогие товарищи, друзья, трудно выразить словами чувство великой скорби, которые переживают в эти дни наша партия и народы нашей страны. Все прогрессивное человечество. Не стало Сталина, великого соратника и гениального продолжателя дела Ленина. Ушел от нас человек, самый близкий, и родной всем советским людям, миллионам трудящихся всего мира. Вся жизнь и деятельность великого Сталина является вдохновляющим примером верности ленинизму, примером самоотверженного служения рабочему классу и всему трудовому народу. Делу освобождения трудящихся от гнета и эксплуатации. Великий Ленин основал нашу партию. nostro fisarmonicista, c'ha un terribile difetto. È zingaro. Ma io ho pensato, lo prendo lo stesso, sempre meglio che fascista, no? Ebbene, Stalin muore e ci arriva questa Unione Sovietica, dopo pochi anni, questione di 3-4 anni. Lavrentij Pavlovich Beria viene accusato di alto tradimento e fucilato. E prende il potere una troica, sempre è così. Io, mamma, te, tu, cominciano. Lopako, Malenkov, Bulganin e Khrushchev. Ma è Khrushchev l'uomo nuovo. Si capisce? È lui che ci arriva di colpo alla fine degli anni 50, primi 60, questa Unione Sovietica, bella, musicale, e il Balshoi e il coro dell'Armata Rossa di Aleksandrov, non più un coro militare, fatto di soldati ma pieno di belle melodie, tutti ci si commuoveva, e poi gli sportivi, Olga Korbut e Yuri Gagarin, e la cagnetta laica e lo Sputnik, sembra un paese poi di brava gente, eccetera. Tutto questo ce lo porta Nikita Sergeevich Khrushchev, con la bella faccia contadina, quel porro popolaresco lì piattato in mezzo alla faccia, la fessura fra i denti, quegli abiti sempre da contadino al giorno della festa. Attenzione, non equivochiamo, non inganniamoci, il tipetto è l'uomo della repressione in Ungheria. Khrushchev è stato funzionario alto con Stalin, però ciò non di meno è l'uomo che demolisce lo stalinismo. Nel 1957, ventesimo congresso del Partito Comunista a porte chiuse, Khrushchev denuncia i crimini di Stalin. Strano, porca miseria, io ho arrivato quasi a credere che questo fosse successo nella villa di Arcore del principe Bella Chioma. Tutti si sono dimenticati che i crimini di Stalin sono stati denunciati dal Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Ebbene, Khrushchev ce la mette tutta. Dopo le porte chiuse arriveranno anche le porte aperte della denuncia, si saprà in tutto il mondo. Ma non solo, l'uomo è un vero riformatore e come tutti i riformatori non avrà fortuna. Khrushchev è l'uomo che lancia la competizione pacifica. Lui dice al capitalismo: ma perché ci dobbiamo scannare? Comunismo e capitalismo sono due sistemi, facciamo come in una gara sportiva, il migliore vincerà. E c'è un momento in cui sembra che l'Unione Sovietica possa vincere, con tutta la conquista dello spazio, quei grandi sportivi, le invenzioni scientifiche, la scienza sovietica è di altissimo profilo in molti campi. E così, ma non solo, liberalizza all'interno il paese, la stagione verrà chiamata disgelo, lascia la gente ritornare a parlare, ad avere un approccio critico, esistono economisti che progettano come Lieberman un mercato nell'economia socialista, è uomo di pace, ritira i missili da Cuba per evitare che ci sia un olocausto nucleare, cerca perfino di risolvere il problema dell'agricoltura perché è un contadino lui. E lanciando una coltivazione intensiva delle terre vergini c'è un periodo in cui sembra riuscirci. Perché fallisce? Perché non ha abbastanza fondi per sostenere il progetto, perché l'impero assorbe troppi quattrini e soprattutto ciò che assorbe di più l'economia sovietica, il sistema militare, perché l'Unione Sovietica è diventata una stratocrazia. Ora, Khrushchev era tutto questo ed era anche un uomo molto gioviale e spiritoso autenticamente. Ora, si racconta che quando lui denunciò i crimini di Stalin, dal fondo della sala uno che non si vedeva gli gridò: Nikita Sergeevich, dove eri tu quando Stalin faceva a pezzi milioni di sovietici? Porca miseria, Khrushchev fece una faccia dura. Chi è stato? Silenzio, brusio per la sala. Allora, Khrushchev, dopo una pausa strategica, un pugno sul podio da cui parla e dice: venga fuori, chi è stato? Silenzio di gelo. Altra pausa strategica, un pugno bestiale che va a saltare i microfoni, boom, boom, e poi, proprio con aria crudele, e adesso venga fuori, chi è stato? Silenzio di tomba. A quel punto Khrushchev allarga uno dei suoi celeberrimi sorrisi e dice: vedi compagno, io allora stavo proprio dove stai lì tu adesso. Era un uomo che sapeva prendersi in giro. Per esempio diceva: noi politici siamo tutti uguali in tutto il mondo, promettiamo di costruire ponti anche se non ci sono fiumi. E poi diceva: che qual è la grande differenza fra me e Kennedy? L'unica differenza che posso trovare è che nel caso io morissi, difficilmente la signora Khrushcheva potrebbe sposare Onassis. Ora, una volta raccontò un diplomatico inglese: abbiamo arrestato un cittadino sovietico che scriveva sui muri del Cremlino: il primo segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, Nikita Sergeevich Khrushchev, è un totale idiota. Gli abbiamo dato un anno di galera per aver imbrattato un monumento del popolo sovietico e 10 anni di gulag per aver rivelato un segreto di Stato. Ora, Khrushchev amava andare in visita alle fattorie collettive perché gli piaceva, era un uomo di campagna. Una volta andò a visitare un kolkhoz bellissimo dove aveva un grande allevamento di maiali e lui stette tutto il tempo fra i maiali, prendeva maialini in braccio, ciacciava queste belle bestie ben nutrite, ben tirate su. Però alla fine ci fu una piccola tragedia: il servizio fotografico che doveva andare alla Pravda ritraeva sempre Nikita Sergeevich Khrushchev in mezzo ai maiali. Allora lì alla Pravda erano nel panico: che didascalia mettiamo? Il primo segretario Khrushchev con i maiali? In mezzo ai maiali? Fra i maiali? Nikita Sergeevich Khrushchev e i maiali? Veramente panico! Finché uno non fece una proposta che fu accettata dal comitato di redazione e decisero per questa didascalia. Il terzo da sinistra è il compagno Khrushchev. Khrushchev fu liquidato definitivamente nel 64. Un'altra volta ci avevano provato, ma lui aveva resistito nel 62, ma nel 64 non ce la fece. In una sala del Cremlino fu messo sotto accusa. Quali le colpe imputategli? Essersi dimostrato troppo debole di fronte al nemico e avere concesso troppa libertà al popolo, cioè pacifista e democratico. Poi si passò ai voti e dopo mezz'ora Nikita Sergeevich Khrushchev non era più nessuno. C'è altro? Chiese alzandosi. Sì, compagno, pensiamo che ora tu debba lasciare anche la tua casa perché è del partito. Va bene, cacciatemi pure, disse Khrushchev. Vuol dire che me ne andrò per le strade di Russia e chiederò un pezzo di pane ai contadini, del resto sono uno di loro. A me non lo negheranno, sanno perché sono stato cacciato. Vediamo quando toccherà a voi. Pronunciò quelle parole con calma, senza mai adirarsi, poi percorse il tratto di corridoio che lo separava dalla porta, uscì e si chiuse la porta dietro le spalle. Non era più nessuno. Lo stalinismo degli stermini, delle fucilazioni, delle liquidazioni era finito. Ora, naturalmente, e questo è il nostro ultimo capitolo, ovviamente, ancora una volta arrivò la troica, sempre, io, mamma, te, tu, non c'è scampo. Podgorny, Kosygin, Brezhnev. Si capì presto che l'uomo nuovo, l'uomo che avrebbe guidato e avrebbe segnato un'era, era lui, Leonid Ilyich Brezhnev. Ora, Brezhnev è passato nella vulgata popolare come un totale deficiente, proprio nelle storiette sovietiche. Non era vero. Lui era un uomo anche di intelligenza più brillante della media. Il problema è che il poveraccio fu colpito da una serie di ictus, prima piccoli e poi più grossi. Però il partito non li rivelava per non indebolire il potere. E allora si racconta che all'inaugurazione delle Olimpiadi di Mosca del 1980, Brezhnev pronunciò questo discorso. Cari ospiti, compagni e amici, fino a quando il suo segretario non si avvicinò e gli disse: Leonid Ilyich, stai leggendo i cerchi olimpici. Il discorso durò 6 ore e Brezhnev stesso si rese conto che la gente stava crepando di noia. Allora disse al suo segretario ma che razza di discorso mi hai scritto? Il segretario gli disse: Leonid Ilitch, te l'ho dato in 6 copie. Allora, vedete, si racconta questo, e anche il contorno di una generale depressione del livello della nomenclatura brezhneviana. Per esempio, il ministro della cultura, la signora Furceva, la compagna Furceva, una volta volle visitare una mostra di pittori impressionisti francesi. Arrivò, ma non aveva né il badge di riconoscimento né i documenti che aveva lasciato in albergo, che era molto lontano. E i due custodi la bloccarono. Ma io sono ministro della cultura Furceva. Ministro della cultura compagna, qui tutti possono venire a dire: noi senza documenti non siamo autorizzati a fare entrare nessuno. Vede, prima di lei è venuto qui il grande pittore Pablo Picasso, e anche lui non aveva il badge, non aveva i documenti, ma io sono Pablo Picasso. E noi abbiamo detto: ma tutti, lei potrebbe assomigliare, uno viene qui e dice: sono Pablo Picasso. Allora lui ha preso il suo blocco da disegno e con un solo colpo di carboncino ha tracciato una delle sue leggendarie colombe della pace. Abbiamo capito che era il grande maestro Pablo Picasso, l'abbiamo fatto entrare. E il ministro compagna Furceva dice: ma chi diavolo è sto Pablo Picasso? E i due custodi: tutto a posto compagno ministro, può passare. Ora, il brezhnevismo è passato come un'epoca grigia, opaca, burocratica, repressiva. Vero, solo in parte però. Questa è una parte della verità. L'epoca brezhneviana cominciò con una serie di buone riforme che vennero bloccate di colpo con la primavera di Praga. Il potere sovietico si spaventò di quella fuga in avanti di uno dei paesi satelliti, pensava che fosse contagiosa, avrebbe toccato anche le repubbliche sovietiche, bloccarono tutto. Ci fu la repressione, naturalmente, ma anche all'interno, peccato, perché le riforme si erano avviate. Ora, avevano fatto riforme che avevano portato anche beni di consumo, i cittadini sovietici avevano la loro casa, non più la comunalca. Insomma, si faceva una vita piena di problemi, le file, i negozi vuoti, però le tavole imbandite. Perché era compensato dal baratto, dalla borsa nera, ce la si sfangava. Molti cittadini sovietici hanno una memoria doppia di quell'epoca. Certo, la repressione e tutto questo, la polizia, anche i campi di lavoro, quello che era. Poi le espulsioni, le intelligenze mandate in esilio, la depressione generale della grandissima cultura sovietica. Però anche c'era una strana, particolare modo di vivere in quell'epoca. Quel sistema tentò, perché non stava più in piedi. C'è qualcuno che dice che la colpa del crollo dell'Unione Sovietica è di Gorbaciov. Questo, secondo me, è totalmente insensato. L'Unione Sovietica aveva ottenuto nel periodo brezhneviano dei successi in politica internazionale. Furono le ultime cose di prova di essere un sistema che teneva. L'aiuto dato al Vietnam fu intelligentissimo e lungimirante, mentre gli americani compivano uno dei loro più devastanti errori, Stati Uniti, di tutta la loro storia. Ancora, l'appoggio ai paesi ex coloniali, e l'Unione Sovietica era vista come amico dei paesi piccoli, deboli, che erano stati sfruttati dagli imperialisti occidentali. Tutto questo però durò fino a quando Richard Nixon, presidente degli Stati Uniti, di cui io non ho nessuna stima, ma bisogna riconoscere i meriti alle persone, ebbe un'intuizione geniale: aprire alla Cina. Poco dopo, questo permise alla Cina di entrare, diciamo, nel raggio dello sviluppo della globalizzazione. Ci saranno le 4 modernizzazioni di Deng e inizia l'impetuosa crescita della Cina. L'Unione Sovietica a quel punto non può reggere un sistema così rigido, stratocratico e repressivo alle dinamiche di una società globalizzata, con tutte le crisi cicliche che questo comporta a partire dagli anni 70 e tutte le impetuose trasformazioni. Cioè, un gigante che è troppo rigido per tenere a tutte le sollecitazioni. In più, appunto, i costi enormi di questa stratocrazia. Tenta con la propaganda, ma la propaganda non funziona più. Non è più quella di Stalin, che, malgrado tutte le ferratezze, funzionava come propaganda. Tanto è vero che i cittadini sovietici fanno a pezzi con la satira e l'umorismo la propaganda del periodo brezhneviano, concentrando gli strali su una radio che era la radio più ortodossa di tutte le radio sovietiche, Radio Erevan, Radio Repubblica Socialista Sovietica dell'Armenia, e nasce un florilegio di storie su questa radio e sulla sua propaganda, naturalmente fatta di gaffe. Qui Radio Yerevan, la radio della Repubblica Socialista Sovietica dell'Armenia. I nostri ascoltatori ci domandano qual è la principale differenza tra la società capitalista e quella socialista. Rispondiamo, cari compagni, in una società capitalista l'uomo sfrutta l'uomo, in una società socialista viceversa. Qui Radio Yerevan, la radio della Repubblica Socialista Sovietica dell'Armenia. I nostri ascoltatori ci domandano, potrebbe esistere in URSS un sistema di più partiti? Rispondiamo, impossibile, non ci sarebbe da mangiare abbastanza per tutti. Qui Radio Yerevan, la radio della Repubblica Socialista Sovietica dell'Armenia. I nostri ascoltatori ci domandano, è possibile secondo voi costruire il socialismo in Svizzera? Rispondiamo, cari compagni, è possibile. Ma perché? Cosa vi ha fatto di male la Svizzera? Qui Radio Yerevan, radio della Repubblica Socialista Sovietica dell'Armenia. I nostri ascoltatori ci domandano, che cos'è uno scambio di opinioni da noi in URSS? Rispondiamo, cari compagni, in Unione Sovietica uno scambio di opinioni è quando entri nell'ufficio del tuo capo con un'opinione tua ed esci con la sua. Qui Radio Yerevan, la radio della Repubblica Socialista Sovietica dell'Armenia. I nostri ascoltatori ci domandano quale tè è migliore, quello cresciuto in Cina o quello cresciuto nell'Unione Sovietica. Rispondiamo, cari compagni, non ficcate il naso nel confronto tra due grandi potenze comuniste. Fateci il piacere e bevete caffè. Qui Radio Yerevan, la radio Repubblica Socialista Sovietica dell'Armenia. I nostri ascoltatori ci domandano, quando Nixon visitò Mosca, lui e il segretario Khrushchev si sfidarono in una gara di corsa intorno al Cremlino. Nixon arrivò per primo. Come ve la siete cavata a dare la notizia? Rispondiamo, cari compagni, la notizia l'abbiamo data così. Nella passata competizione internazionale di corsa, il segretario generale del Partito Comunista ha conquistato un onorevole secondo posto. Mr. Nixon, presidente degli Stati Uniti, è arrivato prima dell'ultimo concorrente. Qui Radio Yerevan, la radio della Repubblica Socialista Sovietica dell'Armenia. I nostri ascoltatori ci domandano, è possibile costruire il socialismo in un solo paese? Rispondiamo, sì, cari compagni, è possibile costruire il socialismo in un solo paese, ma poi è meglio andare a vivere in un altro paese. Ebbene, che differenza c'è fra le favole sovietiche e le favole inglesi? Le favole inglesi, cari compagni, cominciano con c'era una volta. Le favole sovietiche, cari compagni, cominciano con presto ci sarà. Ebbene, è mio parere che l'Unione Sovietica crolla dopo la stagione brezhneviana, subito dopo, e che l'inizio della crepa che distruggerà il sistema è la devastante idea di fare la guerra all'Afghanistan. I sovietici lasciano in Afghanistan 1 milione di morti, queste sono le stime basse. Immaginatevi che cosa sia costato agli afghani. E il sistema non regge quell'investimento e quella devastazione. Ecco perché non racconto qui di Gorbaciov, perché è già un'altra storia. L'Afghanistan è un luogo molto pericoloso. Adesso un altro impero se ne accorgerà anche lui se non si sveglia. C'è un cantore della Russia brezhneviana, un grande cantore, che si chiama Vladimir Vysotsky, un bardo che io metterei fra i grandi del secolo, insieme a Bob Dylan, a Jacques Brel, a Bertolt Brecht, a Brassens, cioè veramente un autentico genio. Lui è quella parte del periodo brezhneviano pulsante, viva, è all'opposizione. I suoi dischi sono proibiti, sono tutti samizdat. Vengono registrati quando lui canta nelle piccole taverne fumose, nei kabak. Qualcuno registra quei registratorini e poi fanno i dischi o fanno le copie a milioni. Oppure viene qualcosa dalla Francia dove lui ha registrato un paio di dischi ufficiali perché sua moglie è naturalizzata francese, l'attrice Marina Vladé. Quando Vladimir Vysotsky muore a soli 44 anni, forse lì è il segno della fine di quel sistema, è qualcosa di simbolico. È stato proibito, vessato, gli è stato impedito di produrre, ma è stato tollerato ovviamente perché era troppo famoso per non tollerarlo, ma quando lui è morto 100 milioni di finestre si sono aperte in Unione Sovietica e da ogni finestra usciva una canzone di Vladimir Vysotsky. Lui ha cantato da grande bardo anche la catastrofe della guerra afghana. Zonasce spinoju a Stalin. Падіння закати, ну хоч би ніщо ж би, ну хоч би невідимий взльот. Хочеться вірити, що чорні є наші бушлати. Дадуть мені возможність сьогодні увидеть вас, хоч сьогодні на людях сказали, умріть геройське. Попробуем, ладно, увидим, какой оборот. Я только подумал, чужие кура папироски. Тут то, как умеет, неважно, увидит вас. Вот особая рота, особой, почет на сапера. Не прыгать с свинкой на спину мою извините, напрасно стараться я и с перерезанным горлом. Сегодня увижу вас вот до развязки свои. Прошли по тылам мы держать, чтоб не резать эксамы. И вдруг я заметил, когда прокусили проход, еще не смущенный зеленый, но чуткий подсолнух. Уже повернулся верхушкой своей на восток. Уходит обратно на нас поредевшая рота. Но было неважно, а важен лишь взорванный форт. Хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность сегодня увидеть вас. È una malinconica sera del 1992. La bandiera rossa che aveva sventolato per 70 anni sul Cremlino, come uno straccetto insignificante, veniva ammainata. Chi è stato il liquidatore dell'Unione Sovietica? Chi l'ha fatta fuori? L'ha fatta fuori un dissidente, il grande fisico Sakharov, anni di dissidenza pagata a duro prezzo. O sua moglie Yelena Bonner Sakharov, lei, o Sharansky, o Vysotsky? No, l'Unione Sovietica è stata liquidata da un supercomunista, Boris Nikolaevich Yeltsin, soprannominato Corvo Bianco, ma Corvo Sbronzo mi sembrerebbe una dizione più corretta. Quest'uomo che è stato segretario del Partito Comunista di Yekaterinburg, membro del presidium del Soviet Supremo, è stato il liquidatore del comunismo. E come l'ha liquidato? Consegnando le Russie nelle mani di un centinaio o poco più di plutocrati, mafiosi ed ex burocrati riciclati per l'occasione. E gettando la popolazione sovietica, i più indifesi, i poveri, i pensionati, i reduci, lavoratori, lavoratrici, orfani, nella disperazione, nella miseria più nera, nella frustrazione, nell'umiliazione. Si sono viste in quell'epoca yeltsiniana madri, quelle con la sporta del mercato e il fazzoletto in testa a cercare di prostituirsi per mantenere la famiglia, centinaia di migliaia di bambini nelle fogne a cercare un po' di caldo. E poi è venuto lo zar Putin a cercare di rimettere insieme i cocci. Non è una roba facile. E come l'ha fatto? L'ha fatto nell'unico modo che conosce. Gli ipocriti occidentali si scandalizzano Il principe Bellachioma di Arcore fa finta di non sapere che Putin è stato capo del KGB. Governa nell'unico modo che conosce. Non è facile certo tenere insieme un paese del genere. Certo, è ovvio che questo ha dei prezzi e i democratici devono stare con Anna Politkovskaya, ovviamente. Ma ci sono delle verità molto amare in tutta questa storia. C'è molta vigliaccheria dietro. Ebbene, così finiva l'Unione Sovietica. Finiva una singolare vicenda su cui bisogna pensare molto se si vuole essere onesti e non fare come certo revisionismo da barzelletta delle nostre televisioni, che prende a calcio un cadavere putrefatto, non tanto per calciare il cadavere, ma per calciare tutto ciò che rappresenta, cioè le conquiste operaie, l'emancipazione delle grandi masse e le grandi lotte, perché quel sistema è caduto giustamente sui suoi errori e sulle sue devastazioni, non c'è da rimpiangerlo. Ma l'ipocrisia dell'Occidente non può essere spacciata per onestà e bonomia. E noi salutiamo, anche noi a nostro modo, la fine di quella strana storia, di quella strana spirito che si è estinto senza che nessuno lo prevedesse. Союз є у жінки, республік свободних, сплотила навеки велика ярость, да здравствует звезда и воля народа, единый могучий. Советский Союз, славься, Отечество, наше свободное, дружбы народа, надежный вопрос. Arrivederci, bandiera rossa. Non agile, lacera e fiera, come ti innalzasti sul Reichstag in fiamme, sotto le nostre bestemmie, sebbene anche allora intorno alla tua asta si attuasse una truffa. Arrivederci, bandiera rossa. Eri metà sorella e metà nemica. Nelle trincee d'Europa eri speranza unanime, ma tu cingevi con uno schermo rosso il gulag e tanti infelici in tuta da carcerati. Arrivederci, bandiera rossa. Distenditi, riposa. Noi ricorderemo coloro che non si alzeranno più dalle tombe, gli ingannati che hai condotti al massacro e alla strage, e loro ricorderanno te, ingannata tu stessa. Arrivederci, bandiera rossa, non ci hai portato bene. Arrivederci, bandiera rossa, ti serra da te il pugno che ti serra di nuovo minacciando il fratricidio quando la guasta si afferra alla marmaglia o la gente affamata confusa dalla retorica. Arrivederci, bandiera rossa. Noi sin dall'infanzia giocavamo ai rossi e ai bianchi le pestavamo forte. Noi nati del paese che non c'è più, ma in quell'Atlantide noi esistevamo, noi vivevamo, noi amavamo. La nostra bandiera rossa ora giace nel gran bazar di Smailovo, la smerciano alla meglio per dollari. Io non ho preso il palazzo d'inverno, io non ho assaltato il Reichstag, io non sono un comuniaco, ma guardo la bandiera.